Allora 11:55, sempre Radio Onda Rossa. Allora siamo al telefono con Andrea del Comitato Romano per l'Acqua Pubblica. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, dunque voi vi trovate adesso alla regione e quindi subito, insomma, vorremmo capire le ragioni di questo appuntamento e ovviamente riallacciati anche a quanto già successo ieri, cioè una mobilitazione che i comitati per l'acqua hanno svolto al Campidoglio e che preannunciano comunque delle giornate, insomma, piuttosto importanti su questo fronte dell'acqua pubblica. Sì, oggi siamo qui alla Regione Lazio perché finalmente dopo un anno oggi va in discussione la proposta di legge di iniziativa popolare numero 31 depositata in occasione proprio dell'insediamento dell'attuale Consiglio regionale un anno fa. L'appuntamento di oggi nasce da una pressione che negli ultimi mesi i comitati di tutto il Lazio, i comitati per l'acqua pubblica, hanno fatto sulla maggioranza e sulla giunta Zingaretti per fare in modo che venisse rispettata la volontà popolare e si arrivasse alla discussione di questa proposta di legge entro la scadenza di un anno che è il 25 marzo. E oggi siamo qui perché appunto in virtù di questa pressione che abbiamo fatto negli ultimi mesi siamo riusciti a far portare in discussione in aula questa proposta di legge e ecco la nostra presenza molto consistente, siamo circa 50 da tutto il Lazio e altri arriveranno anche insomma durante la giornata, curandoci insomma che non sia troppo lunga e non vada ai giorni successivi. E oggi siamo qua per vigilare che non arrivino i colpi di coda rispetto al testo e che quindi non ci sia la volontà da parte di qualcuno di snaturarne i principi. E questa proposta, riassumici brevemente i contenuti di questa proposta così. Allora, intanto ecco, questa proposta ha visto la sottoscrizione di 40.000 cittadini e di 40 consigli comunali presenti nella Regione Lazio. I contenuti della proposta quali sono? Sono quelli che riprendono per quanto riguarda diciamo gli aspetti regionali la proposta di legge che il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua presentò già nel lontano 2007, proposta che fu depositata in Parlamento con oltre 400.000 firme e che chiaramente sono gli stessi principi sui quali i cittadini italiani e i cittadini del Lazio si sono espressi nel 2011. Quindi quelli di innanzitutto ecco avere una gestione o anche la possibilità di una gestione del servizio idrico che sia diciamo libera e fuori dalle logiche di mercato, quindi che veda il servizio ai cittadini e come dire, gli interessi delle comunità al centro, e diversamente da quanto insomma purtroppo avviene soprattutto dove come nel Lazio c'è una gestione in mano a delle SPA che diciamo da loro mandato giuridico perseguono il profitto. Quindi ecco, andando un po' più sui contenuti precisi della legge, parliamo per esempio ecco del respingere la proposta di atto unico, quindi di gestione unica su base regionale, che ha due difetti brevemente. Uno è quello di nuovamente ignorare diciamo le prescrizioni della legge Galli, che parlava di individuazione degli ATO su base dei bacini idrografici e non come ora su base diciamo amministrativo provinciale, e l'altra è quella di appunto allontanare facendo un ambito unico regionale la partecipazione dalla gestione dell'acqua, perché ecco la partecipazione così come dimostrano non so l'esempio di Parigi è un elemento essenziale per fare in modo che questo servizio abbia come obiettivo centrale ed esclusivo quello del servizio e anche del garantire il diritto all'acqua. Sì, senti, voi siete lì ovviamente per, appunto come hai detto, fare in modo che all'ultimo momento non ci siano sorprese, no? Già ieri però voi avete svolto un'iniziativa, diciamo di carattere simbolico, al Campidoglio. per sollevare un problema insomma che è molto sentito soprattutto da chi si è visto insomma chiudere proprio materialmente i rubinetti dell'acqua in casa. Esattamente, ieri per l'ennesima volta purtroppo, anche nell'ultimo anno, quindi insomma da quando si è insediata la Giunta Marino, siamo tornati in Campidoglio. Siamo tornati in Campidoglio e, tra l'altro, consegnando al sindaco, poi l'abbiamo consegnato ecco ai capigruppo che abbiamo incontrato a fianco all'aula Giulio Cesare, le mozioni che sono state approvate in quasi tutti, 14 su 15 municipi di Roma, e che si sono espresse, quindi i municipi romani si sono espressi contro i distacchi, contro la pratica del distacco, perché nega il diritto all'acqua, e per fare in modo che sia avviato, tra l'altro come per ben due volte approvato il Consiglio Comunale stesso, un tavolo serio di confronto con i cittadini, i comitati, i lavoratori, con la città, diciamo, e su un percorso di ripubblicizzazione di ACEA e anche di gestione pubblica dei servizi essenziali come i trasporti, i rifiuti. E quindi ieri ecco siamo andati in Campidoglio per consegnare queste mozioni principali, e il sindaco non era presente perché, come sappiamo, è a Parigi, e abbiamo incontrato i capigruppo, e in questa riunione ovviamente noi abbiamo ripetuto le rimostranze che avanziamo al Consiglio Comunale da ormai da mesi rispetto ecco alla necessità di garantire che l'acqua appunto sia un diritto, e poi di sciorare la questione e del controllo pubblico, che come dimostrano proprio gli stacchi. Infatti i consiglieri comunali stessi ci hanno detto cose che già sapevamo, ma insomma anche sentirlo dalle loro bocche, che credo che sia significativo. Quindi cosa nello specifico? Il fatto che quando il Comune di Roma alza il telefono e chiama ACEA su un distacco, e ACEA, che è una staff di azioni, e risponde che la persona è morosa, e questo indistintamente se è una persona che purtroppo non è nelle condizioni di pagare la bolletta, o anche se è una persona che sta applicando l'obbedienza civile, che è la campagna che abbiamo lanciato come Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, e con la quale i cittadini si riducono, quindi si ricalcolano in maniera corretta la bolletta, dando seguito alla volontà popolare stessa con il referendum. Quindi si tolgono dalla bolletta, ecco, per quanto riguarda Roma è circa un 20% di importo che se venisse applicato il referendum dovrebbe sparire dalle bollette. Quel 20% esce fuori da un 7% figurato, che però purtroppo visto il fatto che ACEA hanno rispetto agli investimenti si trasforma in un 20%, perché quella remunerazione del 7% è calcolata su tutti gli investimenti che vengono messi a bilancio preventivo da ACEA, ma se poi ci accorgiamo che a consuntivo questi bilanci sono la metà, è chiaro che quel 7% sulla bolletta incide per un 20%. Ecco, l'incontro di ieri con i capigruppo chiaramente loro hanno sottolineato il fatto che Marino sta mettendo in discussione in qualche modo il CDA ACEA, però da parte nostra abbiamo sottolineato che chiaramente questa è una questione di riduzione dei cosiddetti costi della politica, che però non necessariamente incide sul fatto che il Comune di Roma riprenda, o meglio arrivi ad avere un controllo pubblico. Se c'è un controllo pubblico, cosa significa? Significa che non risponde più alle logiche di mercato, bensì risponde agli interessi dei cittadini, che sono quelli di avere il diritto all'acqua, e quella che se ci sono eventuali profitti siano reinvestiti per migliorare il servizio. Quindi in pratica il fatto che la CEA abbia un 51% di pacchetto azionario in mano pubblica non garantisce affatto sul fatto che appunto il servizio sia di natura pubblico. E la dimostrazione più evidente è data proprio dal fatto che ha sanzionare i morosi siano delle ditte esterne private di cui peraltro si conosce ben poco, cioè c'è anche questo ulteriore giallo, possiamo dire, perché effettivamente l'elenco di queste aziende è di difficile reperibilità, cioè non si sa precisamente quali siano. Sì, questa è una delle degli aspetti che abbiamo fatto presente ultimamente sia al Comune di Roma che in sede di conferenza dei sindaci ATO 2. Abbiamo appunto denunciato che ACEA appalta dei servizi, soprattutto il distacco a queste società esterne di cui non è dato sapere il nome e che lavorano a cottimo, quindi vengono pagate in base ai distacchi che fanno. Quindi mentre prima un lavoratore ACEA, anche quando andava a fare un distacco, comunque lo andava a fare con la coscienza comunque di far parte di un'azienda che pubblica, quindi cioè andava lì per il Comune di Roma, adesso cioè chi va a fare i distacchi, e se fa il distacco viene pagato e se non fa il distacco non viene pagato e magari viene mandato anche a casa. Abbiamo fatto presente questa questione sia in conferenza dei sindaci TO2, dove tra l'altro ultimamente è emersa in maniera forte anche in virtù di un cambio di atteggiamento del Comune di Roma, che insomma non possiamo non notare, e è emersa con forza l'esigenza di verificare gli investimenti che ACEA avrebbe dovuto realizzare e laddove non sono stati fatti applicare delle penali. Questi sono degli aspetti che nelle ultime due conferenze dei sindaci e il Comune di Roma e tanti altri comuni che soffrono attraverso mancanze dal punto di vista della depurazione, mancati allacci ai cittadini, soffrono in maniera fortissima le gravi carenze che la gestione ACEA arreca al servizio. Voi avete idea, avete più o meno, diciamo così, un conteggio, una proporzione di quanti distacchi siano stati effettuati, ad esempio, a partire da questo gennaio oppure nell'ultimo anno? Allora, sicuramente possiamo dire che da ottobre scorso in qua sono state più di centinaia. Poi i cittadini in qualche modo trovano poi, perché l'acqua è rinunciabile, quindi a differenza di tanti altri beni, non è che puoi farne a meno, quindi i cittadini trovano il modo di avere questo bene. Possiamo dire che sono state diverse centinaia, e ce ne sono state diverse, per esempio questo è un condominio a Ostia che si è vista staccata l'acqua, e questo nonostante al suo interno ci fossero persone con disabilità e nonostante appunto rispettando il referendum questo condominio stesse applicando l'obbedienza civile, quindi si decurtava dalla bolletta la parte che col referendum tutti i cittadini italiani hanno deciso di non voler più pagare, quindi hanno deciso che sulle bollette non ci dovessero essere più profitti per i gestori. Quindi ci sono questi due ordini di problemi per cui avviene il distacco. Uno, la ordinaria morosità, potremmo dire, che ovviamente aumenta rispetto ad una fase economica certamente difficile, che magari non consente a tutti di poter far fronte al costo delle bollette, e l'altro invece è di natura, se vogliamo, un po' più politica, visto che c'è una consapevole scelta di praticare un discorso di autoriduzione della bolletta per dimostrare per essere conseguenti rispetto al risultato referendario. Ora, peraltro, il fatto che la CEA ormai risponda a delle logiche che sempre meno possono essere definite di carattere pubblico e collettivo, in parte è dato anche da quanto sta accadendo in questi municipi a Roma Nord, laddove non si è intervenuti tempestivamente rispetto a un cambio di condutture, di acquedotti, di lavorare affinché le zone coinvolte da questa questione dell'arsenico fossero raggiunte da condutture in grado di portare acqua potabile in quelle case. C'è anche questo problema che evidenzia, no, una gestione delle risorse idriche che è sicuramente molto discutibile. Sì, questo purtroppo, ecco, è il risultato dei mancati investimenti, o peggio degli investimenti non rispettati, perché nel contratto che comunque, ecco, il gestore stipula con i comuni, tra cui il comune di Roma, con i quali, insomma, ai quali offre il servizio, e c'è anche la parte di investimento. E investimento cosa significa? Significa intanto, ecco, fornire il servizio laddove viene richiesto, e non come spesso accade, come dire, cercare di imputare i costi dell'allaccio ai cittadini. Se questo, come dire, significa fare delle opere che vanno, come dire, oltre un certo importo. E per quello che riguarda le questioni come, ecco, l'arsenico in alcuni quartieri di Roma Nord, e come poi, ecco, abbiamo visto dai documenti che sono usciti mano a mano, cioè questa è una questione che si porta avanti da oltre 10 anni, e che vede coinvolti, oltre al gestore, anche la Regione Lazio. Sulla questione dell'arsenico, così come le acque inquinate da altre sostanze, purtroppo, ecco, l'Italia è sotto infrazione europea, e tornando a parlare di ACEA, i comuni del Lazio hanno un'incidenza, ora non ricordo esattamente la cifra, ma molto significativa rispetto al numero di comuni che in tutta Italia hanno questo tipo di problemi. E io dico che anzi invito tutti, ecco, ad andare a dare un'occhiata anche su YouTube. Ci sono diversi video, per esempio, ecco, relativi al convegno che abbiamo come Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua abbiamo tenuto a Torino, che dicono chiaramente, uno, come storicamente ciò che ha reso universale il servizio sia stata la gestione pubblica, e come oltre il 90% delle città nel mondo, oltre 1 milione di abitanti, ha già ripubblicizzato o sta ripubblicizzando. Esempio, ecco, altro esempio eclatante è Berlino. È Berlino che ha deciso di ripubblicizzare, e lì le condizioni, diciamo, di cassa del comune glielo permettono, prende, compra le quote e ripubblicizza. E l'altro aspetto, ecco, la gestione pubblica di Parigi, che come abbiamo potuto ascoltare spesso dalla vice sindaco, ha garantito ai cittadini un servizio migliore, ha garantito il quantitativo minimo vitale, che è dovuto, ecco, visto che l'acqua è un diritto, questo quantitativo minimo è dovuto anche a chi non è nelle condizioni di pagare l'acqua, e soprattutto ha consentito di abbassare le bollette dell'8%. Tra l'altro, ecco, il fatto che ACEA producesse più utili quando era gestita in maniera pubblica, cioè, è stato detto anche dallo stesso consigliere De Luca nel consiglio comunale aperto che si è svolto a Ciampino, sempre, ecco, sulla proposta di legge regionale. Insomma, ecco, noi crediamo che tutti questi esempi, ecco, forse anche il fatto che, al di là, appunto, della situazione di cassa a Berlino, ricompri le quote per avere un servizio sotto il controllo pubblico, dimostra che la gestione pubblica è più efficiente e di maggior garanzia per i cittadini, e quindi, appunto, essendo più efficiente, riesce a migliorare il servizio non dovendo aumentare i costi delle bollette, come invece avviene purtroppo anche dopo il referendum, e lo dimostrano i dossier di cittadinanza attiva, e le bollette continuano ad aumentare, e sono aumenti a 2 cifre. Senti, il tutto avviene all'interno di una situazione particolare, perché voi, noi, insomma, chi è sensibile, ma dovrebbe essere l'intera cittadinanza, ha, diciamo, battersi e lottare per questo tipo di problematiche, sulla necessità di rendere pubblico il servizio. In realtà poi però, insomma, viviamo una situazione nel quale gli stessi enti locali rischiano di, come dire, svolgere un ruolo così semplicemente di supporto a diktat che vengono decisi, emanati altrove. Ovviamente mi riferisco alla situazione in cui si trova il Comune di Roma, la sua situazione debitoria, per la quale starebbe scattando una sorta di piano della troica, no? E quindi i due ministeri, quello dell'interno, quello dell'economia e il governo nella persona del Premier, evidentemente avranno un ruolo attivo nella gestione delle politiche comunali, e da questo punto di vista si prevedono liberalizzazioni, privatizzazioni, dismissioni. Insomma, c'è un problema evidentemente più generale, probabilmente, insomma, la vostra battaglia si complica da una parte, dall'altra può unirsi invece a quella di altre realtà che sono attive contro le privatizzazioni. Sì, la nostra battaglia si complica, e in realtà, ecco, uno, insomma, di, chiamiamoli slogan, ma insomma ha una sua sostanza, che è appunto quello che questa situazione che hai appena descritto si scrive in maniera chiarissima. Si scrive acqua, si legge democrazia, e adottato dal Movimento per l'Acqua, e, come dire, non era appunto solo uno slogan, ma era anche un modo per rendere chiaro che la questione dell'acqua, del servizio idrico, quindi di un bene irrinunciabile, fosse paradigmatica di quello che stava avvenendo, e del fatto che, difendendo l'acqua, chiedendo una gestione pubblica, e poi tra l'altro, ecco, i referendum come dire, hanno avuto il cavallo di battaglia dell'acqua, ma erano sui servizi pubblici locali, e questo al di là dei, come dire, dei tentativi di dividere le cose. E quello che noi, ecco, abbiamo denunciato anche in un recente comunicato stampa, come l'arrivo della troica nella capitale, e, come dire, porta in Italia un pochino quello che cioè cerca di portare in Italia quello che è avvenuto, non so, ad esempio più eclatante è in Grecia. E noi crediamo che si debba uscire da questa visione, come dire, finanziario contabile della società, attraverso la quale la vita delle persone, i servizi che sono a loro indispensabili, come dire, vengono valutati da un punto di vista semplicemente merceologico. Quindi, ecco, noi saremo presenti il 18 marzo al Consiglio straordinario sul Salva Roma, e saremo presenti diciamo, con la consapevolezza che la battaglia per l'acqua, la battaglia per il diritto all'abitare, e quella per garantire appunto servizi essenziali, al di là della possibilità di poterli sostenere, diciamo, come famiglia, come collettività, e noi crediamo che questa roba qua debba ecco, questo appuntamento debba essere uno spartiacque attraverso il quale, come, insomma, nello stesso senso che hanno avuto il deposito delle mozioni municipali, noi crediamo che dal basso, e quindi in questo caso anche dal punto di vista degli enti locali e dal punto di vista del Comune di Roma, debba emergere con forza nei confronti, ecco, del governo, intanto, ecco, la richiesta che siano rispettate le prerogative costituzionali degli enti locali, perché quello che si configura con come dire, il commissariamento di fatto da parte di ecco, del governo, degli interni e dell'economia, è un'usurpazione delle prerogative costituzionali degli enti locali. E noi crediamo che, anzi, ecco, il Comune di Roma, come tutti gli altri enti locali, e lo stanno già facendo, insomma, con tutte le difficoltà che incontrano, debbano, come dire, vendicare, rilanciare, diciamo, dal basso una gestione della cosa pubblica che tolga dal mercato e cancelli l'idea che possano essere merce tutti quei servizi che hanno a che fare, ecco, non solo con, come dire, con la qualità della vita, ma hanno a che fare anche con come dire, il mantenimento di un'armonia e uno sviluppo sociale sostenibile, perché se altrimenti tutti questi servizi cadono in mano alla speculazione, ci troveremo con grosse difficoltà anche, per esempio, ecco, dal punto di vista sanitario, dal punto di vista della segregazione delle persone, in parti della città, per i grossi costi dello spostarsi, insomma, cioè quella che è in discussione, come dire, è veramente la qualità della vita e la possibilità per tutti di avere garantiti alcune possibilità, alcune scelte. Eh sì, è proprio il modello di città, insomma, a essere, no? Messo sotto attacco, un modello di città però che, insomma, è stato, come dire, supportato negli anni dalle giunte che si sono succedute, che hanno fatto, no, così le loro scelte, stringendo legami molto forti con i costruttori, i palazzinari, i privati, gli imprenditori, e magari lasciando, insomma, che ciò che invece inteso come bene comune venisse, appunto, così regalato, usurpato, affidato in gestioni, certo, che non fanno della cosa pubblica, insomma, la loro, no, la loro connotazione principale, che anzi è quello che deve avvenire. Ecco, ora mi viene in mente, sì, una frase molto molto efficace per chiarire qual è l'atteggiamento, appunto, ecco, dei cosiddetti poteri forti nei confronti delle esigenze di cittadini, e che non può essere ovviamente condiviso, anzi deve essere astramente combattuto da enti locali che perlomeno vogliano Però proprio questo è il punto su cui volevo invitare, cioè in questi anni, insomma, mi sembra abbastanza complicato che adesso siano proprio, come dire, responsabili le personalità che governano gli enti locali a intraprendere questa battaglia. Diciamo che anche su altri fronti, la questione, appunto, dell'abitare, eccetera, ha reso abbastanza così evidenti, no, da che parte tirano gli enti locali. E non so se il 18 cambierà qualcosa. C'è questo consiglio comunale straordinario che dovrebbe vedere anche così la partecipazione della cittadinanza. Ovviamente i movimenti ci parteciperanno, vedremo se riusciranno a prendere la parola, ma insomma mi sembra che la battaglia sia da costruire, e che pensare che già da adesso goda dell'appoggio degli stessi enti locali, insomma, è un po' forse velleitario, no? No, questo era un auspicio. È chiaro che però, come dire, chi è chiamato a cambiare passo e a cambiare atteggiamento sono gli enti locali, e da parte nostra, da parte dei movimenti, ci sarà, come dire, una presa di parola, insomma. Ora, ecco, da come era programmato anche all'interno del consiglio, erano previsti degli interventi da parte dei cittadini, dei movimenti, quindi è chiaro che i movimenti, come dire, chiederanno con forza di rispettare quello che d'altronde come dire, segnalano da anni. Quindi mi concentravo sugli enti locali, perché in questo momento, diciamo che al bivio, insieme ai cittadini, ci sono anche gli enti locali, perché come dicevo, cioè, è in discussione il loro ruolo e come dire, possibilità di scelta oltre che libertà, perché se fino a poco fa la possibilità, al di là del fatto che non scegliessero quell'opzione, non gli era preclusa, adesso si rischia che gli sia anche preclusa quella possibilità. Questo è un problema, certo, che di fronte a un commissariamento, no, magari le cose, cioè è più facile che l'ente locale diventi funzionale, cinghia di trasmissione rispetto a quei diktat, piuttosto che mettersi a, come dire, no, essere il bastone tra le ruote che inceppa il meccanismo. Vedremo un po' quello che succede. Il 18 sicuramente c'è questo appuntamento a cui voi parteciperete, e ovviamente parteciperanno anche altre realtà, noi lo seguiremo da vicino. Io, Andrea, per il momento ti ringrazio di questa lunga chiacchierata e ti saluto, e a presto. Grazie a voi, buona giornata. Ciao.